l'angolo del jazz, ovviamente George, senza il quale come faremmo qui a Brusellato? È la grande Meriti, la grande Meriti che ci organizza, che ci guida, che ci porta avanti, altrimenti senza lei siamo persi, vagheremo sempre intorno. E viva la primavera, un'ottima primavera a tutti, a martedì prossimo. Ciao. Avete ascoltato Brusellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.